voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Alzare gli occhi dal libro, leggeva sempre in treno, e ritrovare pezzo per pezzo il paesaggio, il muro, il fico, la noria, le canne, la scogliera, le cose viste da sempre di cui soltanto ora, per esserne stato lontano, s'accorgeva. Questo era il modo in cui tutte le volte che vi tornava, Quinto riprendeva il contatto col suo paese, la Riviera. Ma siccome da anni durava questa storia, della sua lontananza e dei suoi ritorni sporadici, che gusto c'era? Sapeva già tutto a memoria, eppure continuava a cercare di fare nuove scoperte, così, di scappata, un occhio sul libro, l'altro fuori dal finestrino, ed era ormai soltanto una verifica di osservazioni, sempre le stesse. Però, ogni volta c'era qualcosa che gli interrompeva il piacere di questo esercizio e lo faceva tornare alle righe del libro. Un fastidio, che non sapeva bene neanche lui. Erano le case. Questo era l'incipit della speculazione edilizia di Italo Calvino. I saw Jesus and the devil, they look just the same. I saw Jesus and the devil, they look just the same. And folks were willing to follow, but no one came. We were willing to follow, but they look just the same. I felt Jesus and the devil, could not tell them apart. I felt Jesus. Jesus and the devil could not tell them apart. I heard a knocking on the door. Let me into your heart. But it might have been the devil. He is awfully smart. I saw Jesus walk on water, but I could have been wrong. I saw Jesus walk on water, but I could have been wrong. And if I really saw it, then I'll sing him this song. But I got to be sure, because the road it is long. I saw the devil in the garden, he was bringing good news. I saw the devil in the garden, he was bringing good news. He told me I could be in charge, and then he brought me a noose. I put it right around my neck, I thought I'd wear it just loose. And then I tried to get on track again, I tried to be good. I tried to get on track again, I tried to be good. I was looking for the answers, I was reading the book. But I couldn't find the answers, though, try as I would. I talked to Jesus and the devil, they talk just the same. I talked to Jesus and the devil, they talk just the same. And if God is really good, the devil, he knows his game. I talked to Jesus and the devil, they talk just the same. E così a piccoli passi ci stiamo avviando alla conclusione di questa prima intera settimana nel nuovo formato di Eclettica, anche con qualche piccola variazione sul tema al suo interno. Sono quindi molto curioso di avere, come ho già chiesto anche in lista nera, di avere da parte vostra un segno, un'indicazione, un vostro parere su come sia Eclettica ed eventualmente su come potrebbe essere. Giulio e radiorockfm.com è il punto di riferimento. Nel caso invece vogliate scriverlo, facendolo sapere a tutti, potete pubblicarlo su myspace.com/eclettica. Solta o frango e vem com a gente.

this evening, chasing shadows in the darkness. Impossible to silence, have to face myself alone. Alla fine poi la scelta sul singolo io l'ho cambiata rispetto a quella che originariamente per motivi promozionali doveva essere fatta, ma sapete, eclettica è così. E quindi ho abbandonato Drive dei Client nella versione originale per prendere la Double Love Mix by Busta, sì, Busta dei Subsonic, ed è quella che vi siete appena ascoltati. Si rimane in Italia, almeno parzialmente era in Italia, lo eravamo grazie a Busta, con i Giardini di Miro, che di solito ci ascoltavamo da Dividing Opinions con il loro brano Broken By, ma direi che è giunto il momento per cambiare le nostre scelte. Oggi è la volta di Embers. Thank you. C'era una guerra contro i turchi. Il visconte Medardo di Terralba, mio zio, cavalcava per la pianura di Boemia diretto all'accampamento dei cristiani. Lo seguiva uno scudiero a nome Curzio. Le cicogne volavano basse, in bianchi stormi, traversando l'aria opaca e ferma. «Perché tante cicogne?» chiese Medardo a Curzio. «Dove volano?» Mio zio era nuovo arrivato, essendosi arruolato appena allora, per compiacere certi duchi nostri vicini impegnati in quella guerra. S'era munito d'un cavallo ed uno scudiero all'ultimo castello in mano cristiana e andava a presentarsi al quartiere imperiale. «Volano ai campi di battaglia», disse lo scudiero, tetro. «Ci accompagneranno per tutta la strada». Questo era l'incipit del Visconte di Mezzato, di Italo Calvino. But that's just because I can't see clearly from the stage. Baby, I'm used to seeing just a smiling haze. Maybe you're not so friendly, I don't really care. So why does it surprise you when I don't recognize you? So glad to meet you, even if we met before. Everyone is smiling, that's what photographs are for. 'Cause I know that love won't let me down. I know that love won't let me down. We'll be right back. Eclettica, stagione numero 13, playlist numero 29, volume numero 5. Indice: The Early Years, The Young Gods, Urlaubin Polen, White Magic, The Go Find, Ian Archer, Cash, David Carsten Daniels, Bonde d'Orole, Grimoon, Client, Giardini di Miro, Bobby Conn. Il film: Il ragazzo di campagna. Gli incipit: Se una notte d'inverno un viaggiatore, Sotto il sole giaguaro, La speculazione edilizia, Il visconte dimezzato, Tutti e quattro di Italo Calvino.